Radio 24 Reportage. Padre a tempo pieno? No, grazie. Di Alessandra Schepisi. E lei ha preso il congedo parentale quando è nato il bimbo? No, non l'ho preso. L'avrebbe voluto prendere? No, non c'avevo bisogno di prenderlo. Anzi, meglio lavorare che stare a casa. È vero, no. Più faticoso stare a casa che lavorare. Io invece no, devo lavorare. Niente da fare. Potendo l'avrebbe fatto? No. No. Meglio in ufficio. Più faticoso, come ha detto l'altro signore. Sì. Molto meglio, meno fatica. Siamo autonomi, quindi non facciamo niente. È nata la bambina, ora sono 2 anni che non vado in ferie. Lei l'ha preso il congedo parentale? Quando è nato sì, l'ho preso. Quanto tempo? E mi sembra in tutto, nell'arco dei 3 anni, 45 giorni. Allora, un'eccezione, no, perché nessun papà qui l'aveva preso, quindi... No, l'ho preso, sì, solo con lui, perché quando è nato la prima non era ancora in vigore la legge. Pure i papà possono prendere un periodo, sì. Ma nessuno li prende. No, un periodo... no, sempre mia moglie, comunque. Come mai? La mamma è sempre la mamma, deve stare a casa. Se lo prendesse lei, ecco quello. Papà a tempo pieno, no grazie, il congedo non è cosa da uomini. Potremmo sintetizzare così il pensiero di questi papà intervistati davanti alla scuola dell'infanzia e primaria di Roma, Pestalozzi. E del resto i numeri parlano chiaro. In Italia i papà che usufruiscono del congedo di paternità previsto dalla legge 53 del 2000 sono solo il 4% contro il 70-80% dei paesi scandinavi. Eppure nei primi 3 anni di vita del bimbo un papà potrebbe decidere di starsene a casa anche 7 mesi. C'è da dire però che i congedi italiani sono retribuiti al 30% dello stipendio, mentre in molti paesi la percentuale retribuita è ben più alta. Ma sentiamo cosa ci hanno detto le mamme intervistate sempre davanti a questa scuola. Ha preso un paio di giorni perché io non potevo scendere a allattarlo e quindi mi accompagnava lui. Però non è che ha preso, non so, no, un mese? No, sì, magari 2-3 giorni, poi è finito. E che siamo sole qui. I figli, come si dice, sono della mamma e quindi su 100% il 99% se ne occupa la mamma e 1% se ne occupa il papà. Diciamo che è questa la linea, diciamo, di secondo me è di percentuale. Poi ci sono i papà che se ne occupano di più e quelli che se ne occupano di meno. Nel mio caso me ne occupo più di più io, insomma. Aziende, specie quelle private, fanno un po' più di storie. È più difficile che riescano con magari turni a conciliarsi con i, diciamo, i colleghi di lavoro, per cui dice se li prendi tu non li può prendere lui, e allora uno, per non fare una differenza uno con l'altro, dice evito, non l'hai preso lui, non li prendo neanche io. E come dicevamo, quella italiana è una realtà lontana anni luce da altri paesi europei. È per questo che siamo andati a vedere cosa succede in Svezia, dove il 73% dei papà prende almeno 10 giorni di congedo. Stefano Dell'Orto è un papà italiano, dirigente in una società di energia elettrica, vive a Stoccolma e per le sue 2 bimbe ha usufruito di 4 mesi di congedo parentale ciascuna. Ho 2 bambine. Una di 6 e una di 2 anni, e abitando qui in Svezia da un po' di anni ho usufruito del congedo parentale con entrambe. Qui in Svezia è abbastanza facile usufruirne perché è, diciamo, innanzitutto è socialmente non solo accettato ma incentivato. Ricordo una discussione con uno dei dirigenti della nostra azienda che disse: noi ai nostri manager non concederemo mai, diciamo così, di diventare dirigenti se non hanno dimostrato perlomeno di sapersi prendere cura della propria famiglia. Quindi il discorso era: come faccio ad affidarti i miei dipendenti se non ti prendi nemmeno cura così della carne, della tua carne. Quindi quando vengono fatte in maniera anonima dei sondaggi con le aziende, viene chiesto siete favorevoli o meno che le vostre forze di lavoro prendano i congedi parentali, è solo il 4% che dice no, non sono apertamente negativo, invece più del 33% dicono siamo apertamente positivi, anzi abbiamo delle regole per incentivare. Già lo Stato è molto generoso, perché comunque qui ci sono in totale 480 giorni, di cui 60 sono riservati alla mamma e 60 al papà, che non sono obbligatori, ma se non vengono usufruiti vengono persi. Gli altri giorni e mezzo possono essere invece divisi equalmente. E durante questi giorni lo Stato ti dà fino all'80% di una cifra che è più o meno 43.000 euro all'anno. Molte aziende cosa fanno poi? Ti completano fino al 90 o anche al 100% del tuo stipendio nominale, quindi se anche guadagni più di 42.000 euro all'anno loro fanno sì che tu prenda il 90% di quello che è il tuo stipendio vero e non solo quello che ti ha lo Stato. E quindi diciamo che in una situazione così diventa molto facile dire adesso ho il bambino, sto a casa, così usufruisco di questa fantastica opportunità di aver speso questi mesi in più, che ti fanno comunque capire cosa vuol dire prendersi cura dei bambini a quell'età, e creano comunque anche un rapporto secondo me molto molto profondo. Tant'è che poi hai voluto anche condividere questa tua esperienza aprendo un blog in cui racconti la tua vita familiare in modo molto molto ricco e dettagliato. Sì, diciamo che il blog è un'idea. Intanto io, avendo fatto il congedo già con la prima e avendo questi 4 anni, fra i 2 e 4 anni sembrano pochi, però già mi sono reso conto che non mi ricordavo più di tanto di cosa era successo con la prima bambina, quando aveva fatto i primi passi, la prima parola. E poi avevo anche un po' di amici dall'Italia, così, che mi dicevano: ma cosa fai alla fine quando sei a casa? Cambi i pannolini? Come, non è che uno passa 24 ore a cambiare i pannolini? Perché ho detto, scrivo giù un po' per me e un po' per gli amici che sono un po' in giro per il mondo, per la famiglia in Italia, così un po' un diario di cosa succede in queste giornate. E poi un po' la cosa così, è cresciuta, ci ho preso la mano, è divertente, quindi è continuato anche dopo il congedo, è un modo di fissare un po' di memorie. E forse chissà qualcosa cambierà grazie alla direttiva approvata nel 2010 dal Parlamento europeo, secondo la quale i padri avrebbero diritto a 2 settimane di congedo di paternità obbligatorio retribuito al 100% dello stipendio. E intanto un piccolo passo in avanti c'è con la riforma del mercato del lavoro, che ha previsto 3 giorni consecutivi di congedo obbligatorio entro i 5 mesi dalla nascita del bambino. Sentiamo cosa ne pensa Chiara Saraceno, sociologa ed esperta di famiglia. Non è così che si interviene. Innanzitutto non lo chiamerei congedo, ma lo chiamerei permesso. Il congedo è una cosa seria che dura un po' di tempo, 3 giorni sparpagliati entro i primi 5 mesi non è nulla. Non c'è condivisione possibile se non c'è sistematico prendersi cura del bambino, ma soltanto occasionale. Per cui non è che sono in principio contraria. Va benissimo, ci sono i permessi matrimoniali, che ci siano anche i permessi di nascita, ma l'enfasi addirittura all'obbligatorietà per una misura che non ha nessun impatto sull'effettiva possibilità che i padri si occupino in modo un po' continuativo dei propri figli mi sembra assolutamente impropria. Ecco, ma al di là dell'obbligatorietà esiste un congedo facoltativo per il padre, però in Italia ne usufruisce solo 1 padre su 10. Secondo lei quali sono i motivi? Uno, certamente ci sono modelli culturali, ma dall'altro c'è il forte scoraggiamento da parte dei datori di lavoro. In più moltissimi, sia padri che madri, non hanno diritto a questo congedo perché hanno contratti a tempo determinato, quando addirittura non sono co-co-pro, ma soprattutto c'è anche il fatto che il congedo genitoriale è pagato solo al 30%, quindi c'è una fortissima perdita di reddito, e solo per i primi 6 mesi e solo se sono presi entro i 3 anni di vita. Il congedo si può fruire entro i primi 8 anni di vita. I mesi in aggiunta ai 6 sono non pagati. Se fossero pagati, secondo lei più padri li prenderebbero? Assolutamente sì, tutte le ricerche internazionali, che mi piacerebbe che il governo tecnico conoscesse, dicono che ci vogliono 2 condizioni congiunte, non una sola, perché i padri prendano il congedo, siano incentivati a prenderlo. E le condizioni sono che sia ben pagato e che ci sia una quota riservata. Il caso italiano è quello in cui c'è di fatto una quota riservata, almeno 4 mesi, più 1 di incentivo, ma è non pagato. E quindi non succede. Infatti i 2 paesi in cui i padri prendono di più i congedi, prendendo non molto di più della quota riservata, ma prendendola tutta, sono la Norvegia e la Svezia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.